casa. Vite e storie dietro l'azienda. Top 500. La forza del family business nel modello Brianza. Di Lara Vecchio. Nel nostro viaggio nelle imprese familiari italiane, oggi parliamo non di una sola azienda, ma di un territorio. Il territorio è quello della Lombardia. Secondo una recente ricerca, infatti, la Lombardia è la prima regione d'Italia per numero di family business e la più alta concentrazione di questa tipologia di impresa si sviluppa in particolare tra le province di Monza, Brianza, Bergamo e Brescia. Uno studio che ha stilato la classifica delle 500 imprese più significative del territorio, commissionato da Asso Lombarda e da PwC, si focalizza sull'impresa familiare, sulla sua solidità finanziaria e patrimoniale e sulla redditività elevata nel proprio core business. Elementi che in questi anni di crisi hanno permesso di innovare e di internazionalizzarsi sempre più velocemente. Francesco Ferrara, partner PwC. A Monza emerge un quadro che, nonostante stiamo parlando di risultati del 2014, quindi bilanci 2014, che evidenzia una grandissima solidità patrimoniale delle aziende. Quest'anno il focus a Monza è sulle aziende familiari, quindi sul family business, e il family business nelle aziende monzesi evidenzia una struttura patrimoniale molto forte, una grande prudenza nella gestione del debito, una resilienza che le imprese qui hanno dimostrato, capacità di resistere anche nelle condizioni difficili di questi anni. Anche la redditività è interessante di queste aziende, nonostante insomma la tassazione e tutti gli elementi che tipicamente in Italia vengono portati, comunque il family business ha dei risultati di redditività interessanti. Probabilmente con il cambiamento che un po' tutti dobbiamo considerare dopo questi anni di crisi e quindi anche un'accelerazione nei cambiamenti di modelli con cui si va a fare business, credo che ci sia una sfida comunque, nonostante le basi siano molto solide, la tradizione consolidata, ci sia una sfida di cambiare in qualche modo, di inserire nuove formule, per esempio aggregandosi, crescendo dimensionalmente, sviluppando la ricerca e lo sviluppo, che è un'altra area rispetto alla quale oggi ci sono anche strumenti interessanti per facilitare questa attività da parte dell'impresa da un punto di vista fiscale. E comunque la terza area manifatturiera d'Italia, la sesta in Europa, quindi è una tradizione sulla quale costruire un'impresa Brianza 2.0, insomma. Lo studio, realizzato dal CERIF, Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia presso l'Università Cattolica di Milano, ha preso in esame 500 società di capitali, con fatturato maggiore di 10 milioni di euro e con sede legale e o operativa nella provincia di Monza. Delle 500 imprese analizzate, con un fatturato globale di oltre 30 miliardi di euro, 219 sono family business. Quali sono i punti di forza e quali le criticità di questo modello nella gestione del ricambio generazionale? Claudio Sadino, presidente del consiglio di amministrazione di La Prochimide di Muggiò, azienda di distribuzione di prodotti chimici con un fatturato di 53 milioni di euro. Non penso che esista una regola, ma penso che esistano dei casi di carattere, di attitudine delle persone, della capacità del genitore di capire se il figlio e la figlia è all'altezza di seguire la società e in quel caso avere la grande capacità, che non è da tutti, di delegare e lasciare spazio. Ci possono essere casi contrari dove uno non lascia spazio perché non vede le capacità e quindi accentra tutto fino alla fine e poi esce il problema abbastanza grave. Quello che ci è stato molto inculcato, quindi di mantenere, di sviluppare, di essere sempre uniti, mio papà non ha mai smesso di dircelo, non voglio vedervi discutere, rimanete sempre uniti, non serve oggi se uno da 100, quell'altro da 90 o viceversa, di farlo notare o farlo presente, cercare di essere sempre dediti all'azienda, svilupparla, e rispetto per tutti i collaboratori, rispetto per fornitori, clienti, che sono un po' poi la forza dell'azienda. E a oggi diciamo che abbiamo avuto la fortuna di recepire questi insegnamenti e di portarli avanti. Poche imprese, tra quelle analizzate, hanno tassi di indebitamento alti e la maggior parte delle imprese del campione si trova nella fascia dove il rischio è medio-basso. Qual è la forza del sistema Brianza? Ce lo spiega il vicepresidente di Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Andrea Dall'Orto. Ma diciamo che abbiamo avuto delle piacevoli conferme che il modello di fare impresa in Brianza è un modello affermato e ancora vincente, perché i dati che presentiamo sono sicuramente migliori dei dati 2014 e confermano che fare impresa in Brianza è un modello lungimirante e che ha permesso di superare la crisi e ha due contenuti importanti. Uno, un alto contenuto di imprese familiari, che è un fattore non così scontato se lo guardiamo anche a livello nazionale, ma di grosso supporto per le nostre aziende, soprattutto nel periodo di crisi che c'è stato a cavallo del 2009. Il secondo è che è quello dell'internazionalizzazione delle nostre imprese, e diciamo ce n'è uno che è un fattore comune importante, che è la maggior parte delle imprese, ben il 54%, sono manifatturiere, e quindi il manifatturiero al centro è un po' quello che porta avanti Confindustria, senza il quale poi è difficile cavalcare questi segnali di ripartenza. Inoltre la maggior parte delle imprese familiari non sono chiuse su se stesse, sono quasi tutte medie imprese internazionalizzate, quindi vuol dire che hanno già una mentalità aperta ai nuovi mercati, aperta a una gestione manageriale, quindi introducendo dei manager, quindi è aperta sicuramente all'introduzione anche del passaggio generazionale. Ovviamente non mancano i problemi, ma sicuramente un modello più evoluto, vincente e anche moderno, direi. Imprese familiari vincenti, dunque, giunte in alcuni casi già alla terza generazione, come racconta l'amministratore di Montrasio Italia, Emma Montrasio. Azienda leader nella produzione di tessuto, non tessuto e materiali per pulizia industriale e domestica, che oggi vanta 50 dipendenti e un fatturato di 11 milioni e mezzo di euro. Mia nonna credo che sia partita negli anni 40, molto in gamba. È nata per caso, perché era un'attività, non arrivava né dalla sua famiglia né dal marito, se l'è inventata lei. L'azienda si è evoluta tanto ed è cambiata totalmente, quindi abbiamo comprato macchinari nuovi, abbiamo creato prodotti nuovi, tanta ricerca e poi la voglia di continuare a reinvestire nell'azienda. E quindi questo ci ha permesso di essere sempre competitivi e di essere sempre tecnologicamente avanzati. Questo è fondamentale. La domanda da noi non è tanto calata, devo dire la verità. Noi per fortuna abbiamo sempre avuto molta richiesta, perché col fatto che abbiamo sempre prodotti nuovi e abbiamo puntato sempre sulla qualità, quindi con un prodotto che ti dà un futuro. Continuando ad avere prodotti di questo tipo, ci conoscono e quindi periodi di crisi vera non ne abbiamo avuti. Chiaramente sono cambiate le problematiche, cioè diventa sempre più complesso, i margini sono sempre più bassi, gli investimenti sono sempre più alti. Però devo dire, per fortuna, grande crisi no. Fumagalli Romario, amministratore esecutivo di Sol S.p.A., che opera nel settore della produzione e distribuzione di gas industriali e per uso medico, ci racconta la storia della sua azienda, quotata anche in borsa, che spicca al 7° posto della classifica Top 500. Diciamo che la storia comincia nel 1927 a Monza, quando un gruppo di persone si mettono insieme per cominciare questa avventura. Uno di questi era mio nonno, Aldo Fumagalli, un altro era Giovanni Annoni, il nonno dei nostri attuali amici e soci. Hanno cominciato questa attività ad Ancona e a Livorno, quindi in due regioni italiane, fornendo l'ossigeno e l'acetilene per le saldature ai cantieri navali. Allo scoppio della guerra tutto, diciamo, viene distrutto, addirittura un impianto viene nascosto dentro un mulino e viene salvato e tirato fuori dopo la guerra dai nostri nonni, che ricominciano da zero praticamente di nuovo tutta questa attività con grandi sforzi anche economici. E a un certo momento mio nonno è mancato e quindi è stato sostituito da suo figlio Giulio, mio omonimo, a cui si è affiancato mio padre e poi anche i figli del Giovanni Annoni, quindi Renzo e Alessandro Annoni. In quattro hanno condotto, diciamo, la seconda generazione e hanno davvero sviluppato quella che oggi è la nostra società. Loro hanno innanzitutto coperto tutto il mercato italiano, con questa attività, creando anche degli stabilimenti produttivi e consolidando, diciamo, la presenza in Italia, ma soprattutto alla metà degli anni 80, fine anni 80, hanno deciso due linee strategiche importantissime. La prima è di andare fuori dall'Italia. E l'altra grande diversificazione è nata da un'idea, da un viaggio in America che fece all'epoca mio cugino Michele, che andarono in America e videro per la prima volta l'applicazione dell'ossigeno liquido per i pazienti malati che avevano problemi respiratori. E quindi videro come questa nuova tecnologia poteva permettere alle persone, invece di restare in ospedale attaccate a una bombola, ma di poter starsi intanto a casa e soprattutto di andarsene poi in giro. E quindi partì quella che per noi oggi è, diciamo, identificata col marchio Vivisol, attività di assistenza domiciliare che ci vede terzo operatore europeo con 300.000 assistiti. I nostri genitori sono anche entrati in borsa con un aumento di capitale, quindi tutti i quattrini che sono arrivati dalla borsa sono arrivati in azienda e da lì poi è partita la nostra gestione, diciamo, di terza generazione. Ci hanno anche dato impulso, ci hanno aiutato in questo processo di espansione. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.